Allora, alle 11.37 ritorniamo ancora in diretta. Il collegamento che avevamo preannunciato appunto con Brescia è finalmente attivo. Siamo in collegamento proprio con Elia di Radio Onda d'Urto. Ci senti? Mi sento bene, saluto a voi, saluto ascoltatori e ascoltatrici. Un saluto anche a te. Allora, sei il primo collegamento che riusciamo a sentire per avere un po' qualche aggiornamento da Brescia questa mattina, dalla piazza appunto sotto la Cru, dove ancora resistono in 5. Io ti chiederei di partire appunto proprio per questo, proprio da ieri, visto che poi eravamo rimasti a questo appello che in qualche modo chiedeva una tregua umanitaria, un appello anche ampio firmato da... vedo numerose firme in calcio. Sì, la firma appunto è quella dell'associazione Diritti per Tutti, come del centro sociale Magazzino 47 di Brescia, il centro sociale 28 maggio di Rovato, comunità di immigrati, insomma le tantissime realtà che si stanno spendendo da ormai possiamo dire più di un mese nella lotta per contro la sanatoria truffa del 2009, per la regolarizzazione, le realtà che sostenevano e stanno sostenendo la lotta dei 5 migranti sulla Gru, perché uno, come probabilmente saprete, è sceso nel pomeriggio di ieri. Questo appello è a una tregua umanitaria di 48 ore per consentire un stemperamento della tensione, visto che io mi trovo in via San Faustino e ancora la via è bloccata, diciamo così, da due blindati dei carabinieri. Non c'è più il cordone di Cellerini che con scudi, caschi e manganelli, diciamo, si mostrava visibilmente minaccioso, ma comunque la strada è sbarrata, è consentito il traffico sul marciapiede a lato dei blindati, ma è comunque una situazione di ricorda quasi un checkpoint, ecco, potremmo definirlo così a vederlo. Il contatto visivo con la Gru rimane e rimane anche il contatto con questo striscione lotta dura senza paura che è appeso proprio sulla Gru e che è visibile, scalda sicuramente gli animi e i cuori di tanti compagni e compagne che sono qui a portare solidarietà. Questo appello, questa tregua umanitaria è stato proposto perché è in atto un isolamento completo da parte della questura, della prefettura, del ministero degli interni rispetto ai 6 migranti, le 6 persone su questa Gru, un isolamento completo che non prevede la visita di un medico, per esempio, che non prevede le coperte per chi sta sopra e appunto si è riusciti a far arrivare comunque il cibo su, perché altrimenti sarebbe stata una situazione veramente già così è. Potremmo definirla disumana, ma sarebbe stato forse ancora peggio. Non è concesso o hanno sequestrato, non fanno arrivare su comunque il modo per i telefoni cellulari con cui anche noi dalla radio ci tenevamo in contatto con i 6 migranti sopra, lo stesso presidio da sotto tramite telefoni cellulari, tramite radio, insomma cercava di comunicare da sopra per dimostrare la vicinanza. Ecco, questo non è più possibile, insomma, quello che è stato denunciato anche qui durante un punto informativo questa mattina è che questo completo isolamento è una scommessa rischiosissima che stanno giocando le istituzioni sulla pelle di chi sta lottando. Come potrete sentire in sottofondo, comunque qui al presidio anche questa mattina diverse decine di compagni e compagne antirazzisti e solidali sono presenti, scandiscono lo slogan simbolo di questa battaglia dal 6 novembre ormai, che appunto siamo tutti dal 30 di ottobre, scusate, che siamo tutti sulla Gru, insomma questo è il messaggio che arriva da sotto. Una piazza e una strada che è sicuramente destinata a riempirsi, come poi abbiamo visto anche nei giorni scorsi, quando diciamo dalle 5:30, ora di fine lavoro più o meno, la gente passa, transita e si ferma, e soprattutto si riempirà stasera in vista del collegamento che ci sarà all'interno della trasmissione Anno Zero di Rai 2, che è stato annunciato, e da qui insomma l'invito a tutte e tutte è stato quello di riempire una piazza per dimostrare a loro sulla Gru e a chi li vorrebbe tirar giù che non sono da soli, che la vicinanza c'è e prosegue. In questo punto informativo di questa mattina è stato anche fatto un passaggio rispetto alla situazione dell'immigrato che era sulla Gru fino a ieri, che poi è stato insomma in qualche modo è sceso dopo 13 giorni di lotta, ha deciso di scendere e attualmente si troverebbe dal giudice di pace secondo quanto detto, e quindi dal presidio sono espressi anche dei forti dubbi su quelle che sarebbero le rassicurazioni che arrivano dalla questura, che parla di una non espulsione. In realtà da qui dal presidio gli stessi avvocati dicono che se si trova dal giudice di pace è probabile che l'espulsione ci sarà e sarà anche vicina. Per quanto riguarda invece la detenzione nei CIE di Milano e di Posto Brunelleschi a Torino, degli 12 immigrati che sono stati fermati e deportati nella giornata di lunedì durante le carceri della violenta repressione, ieri sono stati convalidati gli arresti per molti di questi davanti al giudice di, ai giudici di pace, insomma, delle varie città. Per il momento questo più o meno è questa è la situazione attuale. Guarda, a me mi verrebbero altre due domande da farti. Una è rispetto all'appello di cui dicevamo all'inizio, se, come dicevi, i blindati sono ancora lì, ma c'è stata qualche risposta finora da parte delle istituzioni? No, scusami, mi sono dimenticato di questo passaggio. No, per il momento non c'è nessuna risposta, anzi noi durante un'intervista che abbiamo fatto con Gabriele dell'Associazione Diritti per Tutti abbiamo chiesto appunto se ci fossero stati degli sviluppi. La sua risposta è stata: il vicequestore ha detto che non c'è in corso una battaglia e di conseguenza non può esserci una tregua. Insomma, come ha ripetuto certo anche Gabriele, secondo lui una situazione di un checkpoint all'interno di una via del centro di Brescia è una situazione normale. Diciamo che continua la sordità delle istituzioni da questo punto di vista. Senti, l'altra cosa era rispetto alle prossime tappe. Allora, mi pare evidente che poi il presidio mi sembra molto determinato a rimanere lì, come mi sembrano determinati chi si trova sopra la gru. C'è un'altra tappa che si legge in rete, che è quella del 13 novembre, che in qualche modo in realtà aveva una genesi diversa, che anche prima di tutti questi accadimenti era stata indicata come una data per una manifestazione antifascista in quel di Brescia, se non sbaglio, per la presenza di un concentramento nazionale, mi pare, di Forza Nuova, che suppongo che a questo punto, con quanto sta avvenendo nella città, diventerà in qualche modo anche un momento per collegare anche queste battaglie, giusto? Chiaramente, dunque, la genesi originaria di quella manifestazione era proprio in antitesi, in opposizione forte a una manifestazione che inizialmente sembrava lanciata come nazionale, poi in realtà non si capisce tuttora bene se sia un appuntamento più locale, perché piuttosto che nazionale, ma comunque un appuntamento che è stato lanciato dai neofascisti di Forza Nuova. E la genesi di questa manifestazione, di quella del 13 lanciata dalla rete antifascista provinciale, era quella. Chiaramente non si può parlare di antifascismo senza parlare di antirazzismo e viceversa, tanto più che in merito a quella che è la lotta degli immigrati e degli antirazzisti di questi giorni, il segretario provinciale di Forza Nuova, insomma, ha definito tutte queste persone bolgia immigrata, quindi questo la dice lunga sul concetto che sappiamo, che conosciamo purtroppo, che hanno di queste situazioni e sul perché chiaramente si lega la manifestazione del 13 con quello che sta avvenendo, ma come anche altri appuntamenti di natura politica che si succedono sul territorio sono chiaramente volti anche a portare solidarietà, sostegno a questa lotta. Insomma, diciamo che per quello che è il movimento bresciano questa lotta fa un po' da catalizzatore, e è impensabile far partire un'iniziativa politica senza legarla in qualche modo a quanto sta avvenendo sulla gru di Piazzale Cesare Battisti. Certo, va bene, senti, io ti ringrazio, sei stato estremamente esaustivo e riassuntivo, non so se tu hai altro da aggiungere, oppure probabilmente ci risentiremo anche nel corso della giornata qualora ci fossero delle novità da dare. No, io ringrazio voi, a risentirci. Ti ringrazio, ciao. Grazie, ciao.